questo venerdì 29 marzo i titoli sono quasi tutti declinati proprio sulla situazione politica. Inizia dal Sole 24 Ore come di consueto. Oggi, a maggior ragione, c'è un titolo che troverete a caratteri cubitali, scritto due parole in colore rosso e nero: basta giochi, l'Italia prima di tutto. C'è anche un duro editoriale del direttore Roberto Napoletano, ma questo basta giochi anche dal punto di vista visivo e grafico è davvero impattante, riguarda la politica. Corriere della Sera: Bersani si ferma, Napolitano in campo. Repubblica: governo in campo Napolitano. La Stampa: stop a Bersani, Napolitano in campo. Il Fatto Quotidiano: Bersani accantonato, Napolitano aspetta Grillo. Il Messaggero: Bersani bloccato, Colle in campo. L'Unità: i supplementari di Napolitano. Il Giornale: ciao ciao Bersani. Libero: che pensi mi. Il Manifesto: mi consenta, e c'è la foto di Napolitano. Il Secolo XIX: Bersani in panchina, Napolitano in campo. Ecco, le metafore calcistiche si sprecano su questo. Avvenire: Bersani fermo, il Colle cerca la via di uscita. Questi titoli, come vedete, tutti declinati sulla situazione politica davvero difficile in questo venerdì, in cui chissà se usciremo da questa via crucis politica, se mi è concesso questo accostamento tra sacro e profano. Allora, intanto una buona notizia. Oh, perché si parla sempre la casta. Oh, pare iniziata l'era Boldrini. A parte l'annuncio di ricitaliamo, riduciamo lo stipendio. Ieri nuovi effetti della cosiddetta spending review, almeno della classe politica. La Boldrini decide nuovi tagli alla Camera, così il titolo della Stampa. Ma c'è una pagina più o meno ovunque: Camera, tagliati, appartamenti e auto blu, così titola per esempio il Messaggero a pagina 7. La decisione più importante è quella di rinunciare a un privilegio che era consentito e che era appannaggio di presidente della Camera, 4 vicepresidenti e 3 questori, e cioè un'abitazione da 200 metri quadri in dotazione. Non ci sarà più. Così come non ci saranno più l'utilizzo, se non per motivi strettamente necessari, delle auto blu. Repubblica fa anche lei una pagina, a pagina 11, stop agli alloggi di servizio, giro di vite sulle auto blu, alla Camera arriva l'austerity. Silvio Buzzanca racconta un po' tutti i vari provvedimenti presi dopo quello del taglio dello stipendio. Le auto blu. Intanto è certo che le 10 auto blu ospitate nel garage di Montecitorio usciranno solo per spostamenti nel comune di Roma. Fuori città potranno spingersi fino a Fiumicino, Ciampino, ma solo per ragioni di servizio. E sono previste deroghe solo per casi eccezionali e motivati. Ah, le deroghe, l'Italia, c'è sempre la deroga. Chissà perché c'è sempre bisogno di una deroga. Perché poi nelle deroghe rischia di entrare di tutto, cari italiani. Comunque, no, vogliamo essere ottimisti. Questa volta saranno più rigorosi. Poi si cercherà nel complessivo bilancio della Camera, che vale 992 milioni e rotti, qualcosa da tagliare. Nel mirino finiranno i costi del personale di segreteria. Così come il secondo passo sarà quello di mettere mano al taglio della indennità di ufficio. Tradotto vuol dire che si taglierà quel surplus di denaro sia la Boldrini e Grasso, che riceve quel surplus che riceve chiunque ricopra un incarico di vertice, no? C'è un'indennità di servizio, che ne so, sei capogruppo di un partito, di un capogruppo di un gruppo parlamentare, per questo è un'indennità di servizio. Ma perché? Si penserà di togliere anche questa. Spese di rappresentanza, si vuol togliere anche questo. Dopo l'indennità di ufficio, le spese di rappresentanza, che nel bilancio valgono 665 mila euro. E ancora, si pensa di togliere su argomenti più spinosi, che sono ciò che la Camera versa ogni anno ai gruppi parlamentari, e lì sono 35 milioni e rotti di euro solo nel 2012. Insomma, dai, fiducia, diamo fiducia a questo nuovo corso, e qualcosa è già iniziato. Ovviamente i giornali staranno attenti a vedere se non saranno solo annunci o se si concretizzeranno. Però insomma bisogna iniziare, no, con questo, dare questo ottimismo, dare questa idea che qualcosa si può fare. Laura Boldrini stessa ha detto non risolveremo certo i problemi dell'Italia, della crescita, ma è un buon biglietto da visita questo che vogliamo dare. E noi ci crediamo e diciamo bravi, bravi, sicuramente se si inizia così. Dall'altra parte è tornato libero Francone Fiorito. Ve lo ricordate, Erbatman? Rimangono le accuse di peculato, dovrà subire il processo, ma è tornato in libertà. Prima era stato in carcere, poi agli arresti domiciliari, ora è un uomo libero. Il Corriere della Sera è l'unico con Fulvio Fiano che riesce a strappare qualche dichiarazione al citofono. Tra l'altro il citofono della campanella, il campanello di casa, il citofono che viene fotografato, sapete cosa c'è al posto del nome? Il logo di Batman. Cioè si è messo il logo di Erbatman, no? Si è messo il logo di Batman, il pipistrello, sul citofono della casa di Anagni. In realtà non è che dice molto, se non mi hanno telefonato almeno 2000 politici, non sono riuscito a rispondere a tutti. Che è 2000 politici addirittura? Una piccola, lieve esagerazione mi sembra di poter dire da quando è libero. Comunque, l'ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Regione Lazio torna libero, un vento umido, una nebbia sottile avvolgono il bat rifugio. Quando i carabinieri si presentano a citofonare come ogni giorno da 2 mesi a questa parte, al campanello che non ha un nome ma un simbolo, le ali del super pipistrello. Così inizia l'articolo del Corriere della Sera che trovate a pagina 23. Questa volta però non si tratta del controllo quotidiano, ma i militari vengono a notificare la fine delle esigenze cautelari, anche perché Fiorito ha ammesso molte delle responsabilità addebitate e ha messo sul piatto 550.000 euro da restituire pronta cassa, fondi pubblici che gli sarebbero stati anticipati ma che non ha speso. In più, Batman ormai viene definito così, d'altronde anche lui sul citofono si mette il simbolo di Batman, quindi ormai è sdoganato. Batman è pronto a restituire vendendo i suoi beni, anche le case, soprattutto che a oggi peraltro sono sotto sequestro della Corte dei Conti, che contesta a lui un danno erariale di oltre 1,5 milioni di euro. Vabbè, Fulvio Fiano raccoglie anche qualche parere in paese, c'è qualcuno che dice ci manca solo che moglie danno una medaglia, qualcun altro io non so niente, ma possibile che non sapesse qualcosa. Lui dice non posso dire niente, i giudici mi hanno dato fiducia, nessuna dichiarazione, nessun festeggiamento. Certo, allude ancora a quel tutti sapevano e poi questa frase, mi hanno telefonato almeno 2000 politici. E che è tutti alla corte del Batman Francone Fiorito. Anche il Messaggero dedica una pagina a questa notizia, Fiorito rimesso in libertà, il GIP dice vuole risarcire i danni. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, sono le 7:35 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali e tuffiamoci allora nei tantissimi articoli, retroscena che troverete sul resoconto di quello che è successo ieri. Politicamente è successo questo: Pierluigi Bersani, dopo le consultazioni, è andato da Napolitano, un'ora di colloquio, un'ora abbondante, definito da tutti teso. Sul Secolo XIX, per esempio, c'è scritto che si sono dati sempre del tu Napolitano e Bersani, ma il termometro è virato subito dalla serenità alla tempesta. Perché quello che si diceva da alcuni giorni, Napolitano ha visto che non c'erano i numeri certi e quindi ha congelato, ha preso in mano la situazione e ha detto in pratica in un altro giro di consultazioni che farò oggi stesso rapidamente, vedrò io di capire se si riesce a risolvere la situazione. Ecco da qui tutti i titoli. Insomma, Napolitano in campo, Bersani in panchina, Bersani congelato. Per la verità Bersani non demorde, il titolo del Sole 24 Ore a pagina 4 è questo: Bersani non ho rinunciato, il Partito Democratico ha fatto sapere che tecnicamente Bersani è ancora in campo, la parola rinuncia non compare né nelle parole del segretario del PD né nella nota serale del Quirinale, così scrive nel suo articolo resoconto Emilia Patta, pagina 4. E dunque tecnicamente in pratica cosa succede? succede? Che Napolitano vorrà verificare lui di persona se gli ostacoli che Bersani ha denunciato e le richieste per lui inaccettabili che si è sentito dire sono effettivamente ostacoli insormontabili e proposte inaccettabili. Napolitano lo vuole verificare di persona, ecco perché oggi si inizierà il Popolo della Libertà con anche Berlusconi che andrà, poi il Movimento 5 Stelle, poi Scelta Civica, insomma in una giornata, farà tutto in una giornata e forse a sera o forse l'Unità dice domani mattina Napolitano trarrà le conclusioni e lì potrà fare che cosa? Potrà proporre anche un altro nome, la via più presumibile è questa, almeno raccontano tutti i giornali di questa possibilità. E quali sono i nomi? Beh, prendono forma alcuni nomi che sono i nomi soliti, vale a dire Giuliano Amato, Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Banca Italia, Anna Maria Cancellieri, ministro attuale dell'Interno, però spuntano anche nuovi nomi. È interessante per esempio l'articolo di Fabio Martini sulla Stampa, lo trovate in prima pagina. Il titolo ha i nomi sul tavolo, da Gallo a Saccomanni. Allora, la prima questione che il capo dello Stato vorrà risolvere oggi riguarda la forza della pregiudiziale del Popolo della Libertà sul prossimo inquilino del Quirinale, scrive Martini. E cioè, è vero o no che Berlusconi è disposto a votare candidati alla presidenza della Repubblica soltanto di provenienza di centrodestra? È vero o no che una volta risolta questa querelle, per il PDL un premier vale l'altro, dunque anche Bersani? Soltanto al termine del nuovo giro di consultazioni il capo dello Stato sarà in grado di avere tutti gli elementi per poter calibrare l'incarico. E allora, si risollevano le quotazioni di Fabrizio Saccomanni e Giuliano Amato, scrive la Stampa, ma ha preso quota anche l'ipotesi di una figura di assoluta garanzia, come quella del presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo. Così come, attenzione, spunta una ipotesi molto spiazzante, scrive la Stampa, rimasta copertissima, ulteriore prova della fantasia politica del capo dello Stato, e cioè la figura del presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e anche sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, che è stato nostro ospite tra l'altro una settimana fa. E scrive Martini: Del Rio, cattolico, medico internazionale, padre di 9 figli. Io l'ho letto strabutto, 9 figli. A saperlo glielo chiedevo, 9 figli, sapere anche come ha fatto il tempo di fare 9 figli il sindaco di Reggio Emilia. Eletto da una maggioranza bipartisan alla presidenza dell'ANCI, è un personaggio nuovo, estraneo alla vecchia politica, con un profilo istituzionale e avendo parteggiato per Renzi alle primarie del PD, anche una personalità capace di garantire un'alternativa al sindaco di Firenze. Poi riaffiora il nome che qua stiamo sponsorizzando da più giorni, anche quello di Fabrizio Barca, ministro della coesione del governo Monti, 58 anni, ex VGC, laurea in scienze statistiche a Roma, master a Cambridge, vero, scrive tra l'altro la Stampa, una carriera in Banca d'Italia interrotta dalla chiamata di Carlo Azeglio Ciampi al Tesoro, potrebbe essere un Prodi numero 2, ha detto di lui Angelo Rovati. E vabbè, questi nomi, ma spunta anche Emma Bonino. Sta di fatto che secondo Marzio Breda sul Corriere della Sera Napolitano farà tutto entro oggi, esplorazione per un governo di scopo, tra i nomi c'è anche qui, spunta sul Corriere, Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale, mentre Bersani insomma si sta un po' interrogando sul perché non è riuscito a trovare quello che è stato quello che definisce usare l'asso, calare l'asso piglia tutto. Federico Geremicca in un reportage retroscena sulla Stampa pagina 3 lo descrive corrucciato, preoccupato, molto deluso. Siamo arrivati vicinissimi all'obiettivo, manca solo un passo, ora vediamo se Napolitano ci aiuta a farlo. Ecco la sensazione che quindi un Bersani che non si sente fuori dai giochi, come racconta Repubblica, uno dei punti dirimenti è proprio questo. Berlusconi, è vero che ha messo questa pregiudiziale, cioè vogliamo uno dei nostri, o io, Gianni Letta, o comunque un nome non del centro-sinistra, espressione del centro-sinistra, al Quirinale? E se si supera questo impasse, è vero quello che dicono alcuni del Popolo della Libertà, cioè siamo disposti anche ad avere un governo monocolore del PD? a patto che loro ci diano il Quirinale, per dirla brutalmente, come mercato dei posti. È davvero così? Napolitano oggi lo vorrà verificare guardando in faccia e parlando con Silvio Berlusconi. Per un altro scenario, a pagina 8 di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, il ministro dell'Interno Anna Maria Calcellieri è in pole position come possibile nuovo nome da incaricare per formare un nuovo governo. Vabbè, insomma, è tutta una serie di nomi, di proposte. Poi uno spunta e spulcia i giornali e trova a pagina 4 l'articolo del Quotidiano Nazionale sullo spettro dell'inciucio: la Bindi minaccia le dimissioni. Uno legge questo titolo: la Bindi minaccia le dimissioni, è presidente del Partito Democratico. Io l'ho letto 5 volte e dice, vedete che insomma non è che tutto, magari questa attesa debba per forza produrre risultati negativi. E in tutto questo ovviamente si attende oggi cosa dirà Silvio Berlusconi a Napolitano, come si attenderà cosa diranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Pare questa volta non si presenterà da Napolitano Beppe Grillo. Beppe Grillo che ieri ha lanciato questa forte provocazione: si può stare anche senza esecutivo. C'è il governo Monti, è l'idea della prorogatio, no? Di prorogare di per qualche tempo, il più a lungo possibile, il governo Monti, nominare il nuovo capo dello Stato, e intanto c'è il governo Monti, il Parlamento può lavorare, può legiferare anche senza un nuovo governo. Questa è la linea dettata ieri dal consueto post sul blog di Beppe Grillo, l'idea della prorogazione sulla quale, per la verità, molti, non so, ieri Piero Grasso ha detto, per carità, non parlo di ipotesi che non stanno né in cielo né in terra. Sta di fatto che il Movimento 5 Stelle, secondo alcune indiscrezioni, per esempio sul Fatto Quotidiano a Paola Zanca, a pagina 4, oggi potrebbe proporre addirittura una lista di nomi a Napolitano, e questi nomi sarebbero Rodotà, Zagrebelsky, cioè che girano da un po', e Salvatore Settis, professore. Però c'è anche Maretta, perché all'interno del movimento qualcuno dice: ma chi li avrebbe scelti questa lista di nomi? Sapete che lì scelgono tutto in maniera democratica, per alzata di mano, eccetera, e questa sarebbe invece stata una scelta, se c'è questa scelta, che non ha passato il vaglio di nessun tipo di discussione all'interno del movimento. A proposito del Movimento 5 Stelle, c'è un senatore che è senatore ma lo sarà ancora per poco, dovrà scegliere se la lapidazione, l'impiccagione o il plotone ed esecuzione, probabilmente come metodo di estromissione. Si tratta del senatore Marino Mastrangeli, che ha avuto la bella idea, questo per il Movimento 5 Stelle, di presentarsi da Barbara D'Urso a un talk show. Ospite dalla D'Urso è il nostro Razzi, così qualcuno lo definisce. Il Fatto Quotidiano raccoglie qualche testimonianza all'interno del Movimento 5 Stelle. Qualcuno dice: non sono neanche arrabbiato, qualcuno anonimo del Movimento, qualche collega, non sono neanche arrabbiato che sia andato in TV, perché finalmente avremo un motivo per cacciarlo a calci nel culo. E sul Secolo XIX viene intervistato Marino Germano Mastrangeli. Forse ha preso troppo sul serio la storia dell'appellativo cittadino. Sentite in questa intervista di Ilario Lombardo, che trovate a pagina 4, come spiega la sua comparsata dalla D'Urso. La cittadina Barbara D'Urso mi ha chiamato tramite una cittadina giornalista. Io ho risposto come faccio con tutti i cittadini che mi scrivono su Facebook. Chi lo conosce non si capacita di come abbia fatto. Sta di fatto che dice: ora forse mi cacceranno, vedremo se così andranno le cose. Per me la rete è sovrana, decideranno gli iscritti al movimento, ma se un cittadino della Repubblica Italiana mi fa gentilmente una domanda, io gentilmente rispondo. Comincia a starmi un po' qui sullo stomaco questo termine cittadino. Vabbè, comunque continua l'intervista, dice: ma come ha fatto lei andare a un talk show? Ma non era un talk show, c'ero io in collegamento che rispondeva alle domande della D'Urso, come avevo chiesto, senza politici, solo tra un cittadino senatore e un cittadino giornalista. Sì, ma c'era anche Daniela Santanchè, ma io non lo sapevo e poi me ne sono andato, sono stato solo 15 minuti, ho parlato di politica, delle notizie, mi hanno chiesto se ho un nome per il Presidente della Repubblica che mi piace più di tutti. E lei cosa ha risposto? Ho risposto che la persona che mi piace di più al mondo è mia moglie. Questa è la risposta del cittadino Marino Mastrangeli, senatore cittadino del Movimento 5 Stelle. Ma sto cittadino Mastrangeli del Movimento 5 Stelle, ma non è conclusa l'intervista, dice anche sempre al secolo XIX, ma lei sa che rischia l'espulsione? Non succederà, sono convinto che gli iscritti del Movimento abbiano fiducia in me, l'espulsione ha la stessa probabilità che un meteorite di grande dimensione cada sulla Terra, e se il meteorite dovesse cadere, moriamo tutti. Questa è la risposta del cittadino Mastrangeli, che è la domanda di Barbara D'Urso, della cittadina Barbara D'Urso: cosa proporrebbe lei per il Presidente della Repubblica? Il migliore nome è mia moglie, la persona che mi piace di più al mondo. Intanto affila le armi, e leggo il titolo del Messaggero, Matteo Renzi. È il nome che viene più chiacchierato, il nome che viene tenuto più sotto traccia, il nome che viene più... C'è anche questa polemica per il fatto che Matteo Renzi andrà in TV da Amici, da Maria De Filippi, settimana prossima, sabato 6 aprile. Non ho ben capito il senso delle polemiche. Qualcuno lo accusa di volere blandire il voto dei giovani, di andare nella TV di Mediaset, sempre le solite cose, Renzi berlusconiano. Vabbè, andrà da Amici, andrà da Maria De Filippi, nella trasmissione Amici. Boh, è una cosa scandalosa, cioè da provocare e procurare dibattiti sui giornali? Non lo so. Libero ricorda anche quando partecipò, come abbiamo fatto sentire, alle 6:30 alla Ruota della Fortuna, no? Ma era un altro Matteo Renzi. Compro una vocale, come Adone, disse così alla Ruota della Fortuna. Compro una vocale. Vabbè. Sta di fatto che la situazione, intanto, mentre c'è questo impasse politico, davvero uno stallo che non si sa come verrà sciolto. Ieri noi abbiamo parlato dei debiti della pubblica amministrazione, io avevo detto questa cifra di 70 miliardi, qua nel giro di 24 ore va aggiornata. I debiti che le imprese aspettano per forniture fatte allo Stato, lavori fatturati e soldi mai ricevuti, la quota sale a 91 miliardi, è la nuova stima, è una stima di Banca Italia, trovate questa cifra spiattellata a pagina 7 del Sole 24 Ore, Rossella Bocciarelli racconta il totale dei debiti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione a fine 2011 era pari a 91 miliardi, si tratta del 5,8% del PIL. È per questo che, accomunando questa situazione politica difficile, una situazione economica disastrosa in Italia, il titolo del Sole 24 Ore, voglio tornare a questo con cui ho aperto, è con questi caratteri cubitali, basta giochi. Ricorda un po' anche il fate presto di qualche mese fa, per spiegarlo graficamente, ovviamente in radio non è molto facile, ma se prendete la prima pagina del Sole 24 Ore, io l'ho anche pubblicata sul mio profilo Twitter Alino Milan, la potete vedere lì, insomma, anche graficamente. Scrive il direttore Roberto Napoletano nell'editoriale che trovate sotto il titolo: quasi un giovane su due senza lavoro, ogni giorno chiudono decine di aziende manifatturiere, l'insieme di prelievi fiscali contributivi che grava sulle imprese è arrivato alla cifra record del 68,3%, il costo delle inefficienze della macchina burocratica su imprese e famiglie stimata in 73 miliardi l'anno. Si attende lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione. Basta giochi, per piacere, questa Italia esige rispetto, attenzione, soprattutto merita di essere governata. Serve un governo che attui la discontinuità necessaria rispetto a una linea di politica economica che va da Tremonti a Monti e sia sempre ben guardata dall'intervenire nel corpo vivo della inefficiente macchina pubblica per liberare correttamente le risorse necessarie a avviare una riduzione dei prelievi fiscali e contributivi e alimentare un flusso costante di investimenti in conto capitale a partire dalla spesa per le infrastrutture. All'Italia serve un governo che faccia qualcosa sul piano dell'economia nazionale, lo faccia subito e bene, mettendo a fuoco non interessi di parte ma l'interesse generale, che coincide con l'avvia soluzione della doppia emergenza del lavoro giovanile e della questione industriale italiana. Così il direttore del Sole 24 Ore sotto questo titolo, basta giochi. A proposito di crisi, situazione economica difficile, mi ha molto colpito e ve la voglio proporre perché è una pagina molto interessante, quello che il Secolo XIX scrive a pagina 11. È un emblema, un piccolo spaccato, una piccola esperienza che racconta però come funziona attualmente il nostro paese. Nascerà a Modena il supermercato dei disoccupati, dove paghi lavorando. È molto interessante questo articolo di Marco Marozzi, che trovate a pagina 11 del Secolo. Come funziona? È un supermercato in cui il prezzo dei prodotti non è indicato in euro, ma in punti. Potranno accedervi circa 450 nuclei familiari in base alle valutazioni dell'ISEE, facendo attenzione alle famiglie numerose. Uno va lì, preleva, ci sono dei prodotti, molti prodotti sono quelli che sono stati raccolti dalla raccolta alimentare, ci saranno prodotti di igiene, eccetera. Uno va lì e trova dei punti, vi viene data una tessera. Invece di costare, che ne so, 2 euro un prodotto, costa tot punti. Questi punti sono punti che vengono caricati sulla tessera e uno, per scaricare questi punti, deve dare in cambio del lavoro, cioè lavorare in quel supermercato. Può acquistare dei prodotti e in cambio fornisce tot ore di lavoro in base ai prodotti e quindi ai punti che ha acquisito, lavorando nella struttura dove ha preso questi prodotti. Beh, davvero, 4 kg di pasta, un punto, un litro d'olio, 2 punti. Benvenuti a Portobello, il supermercato dove gli acquisti non si pagano, non si pagano almeno in soldi, ma con una tessera scalare, ricaricabile con lavoro volontario, pure lui non pagato, e almeno una volta alla settimana. È il supermercato per disoccupati e famiglie che verrà inaugurato a maggio a Modena dal centro servizi per il volontariato. Stanno lavorando tra l'altro a questa struttura da 500 metri quadri artigiani, installatori, e lavorano tutti tra virgolette gratuitamente o con fortissimi sconti, per una struttura che può contare sull'aiuto di 20 associazioni e 70 volontari. Che cos'è? Baratto? È un'iniziativa che mi fa meditare, mi fa pensare, insomma, che la situazione sia davvero difficile e si voglia anche risolverla così. Ci fermiamo, è tempo di giornale radio, poi dalle 8:15 con i nostri ospiti affronteremo la questione politica.